Signora Grobak? Signora Grobak? Che cosa vuole dalla signora Grobak? Come che cosa voglio dalla signora Grobak? La signora Grobak è la proprietaria della pensione. Voglio che mi dia immediatamente delle spiegazioni. Impossibile. Impossibile? Ma che succede? Signora Grobak? Non ha sentito Willem. È impossibile. Willem ha detto che è impossibile? Proprio così. Ma chi è Willem? No, chi siete voi? Che cosa volete? Chi c'è nella camera della signorina Buster? Signora Grobak? Signora Grobak? Signora Grobak? Mi scusi, signore. Signora. Signore, non preferisce restare qui e sedere? No, io non voglio né restare a sedere né parlare con voi finché non vi sarete presentati. Signor poliziotto, qualcuno deve averlo calunniato. Lei, signora, deve restare in camera sua. Signor poliziotto, qualcuno deve averlo calunniato. Signora. Signora, lei deve restare in camera sua, non ha sentito Franz. Mi dispiace, signore. Signora. Signora, per il suo bene, mi creda. Faccia parlare con la signora Grupa. Signore, qualcuno deve averla calunniata perché senza che abbia fatto niente di male. Lei è in arresto. In arresto. E perché? Non siamo autorizzati a dirglielo. Il procedimento è solo all'inizio e lei saprà tutto al momento opportuno. Parlandone così amichevolmente, io e Franz superiamo i limiti del nostro incarico. Già, speriamo bene che nessuno ci ascolti. Che cosa ha preso lei dalla camera della signorina Plusberg? Che cosa ci faceva nella sua camera? Fotografie! Fotografie! Qualche problema? Non le occorre un vestito come questo. Adesso gliene daranno un altro. Noi ci terremo cura del suo e se il suo caso si concluderà positivamente per lei riavrà tutto. Giacca! Ma di che cosa sta parlando? Da quale autorità dipendete? Lei saprà tutto al momento giusto. Giacca! È meglio che la roba la dia a noi e non al deposito. Già, al deposito ci sono spesso dei furtarelli. Se poi laggiù svendono tutto e addio non stanno mica a guardare se un processo è finito o no. Proprio così, Willem! Proprio così! Ah, questi processi sono interminabili in questi ultimi tempi. Franz, Willem, spogliatelo. Che fate? Ma come vi permettete? Ma che gente siete? Di cosa parlate? Quale autorità rappresentate? Lei non capisce? Questi vestiti non le occorrono, deve darli a noi, a lei gliene serviranno altri, chiaro? No, no, non è chiaro. In fin dei conti viviamo in uno stato di diritto. Dappertutto regna la pace, tutte le leggi sono in vigore. Allora si può sapere come vi permettete di entrare in casa mia e di darmi degli ordini? Posso? Ecco i miei documenti. Willem? Con voi tornerò a parlare solo dopo che mi avrete dichiarato le vostre generalità e fornito spiegazioni esaurienti in merito a questo sequestro, chiaro? Sembrava una persona ragionevole. Scarpe e pantaloni. Tessera da ciclista? Perché non si sposta? Lei non può uscire. Certificato di nascita? Si sposta. Non può uscire. Le scarpe? Carta d'identità. Perché? Perché lei è in arresto. Ma come può essere che io sia in arresto? Per giunta in questo modo. A queste domande noi non rispondiamo, scarpe e pantaloni. Beh, dovrete pure rispondere a qualche domanda. Io questa legge non la conosco. Tanto peggio per lei. È una legge che sta scritta soltanto nelle vostre teste. Se ne accorgerà a sue spese. Hai sentito, Willem? Dice di non conoscere la legge e insieme di essere innocente. Pantaloni! Hai ragione, Franz, ma è chiaro che non vuole capire. Chiaro. Infatti non capisco perché devo continuare a farmi riempire la testa per chiacchiere di tre spirri. Perché è questo che siete, no? Due parole, due, che io dica ad un mio pari grado. Chiariranno tutto ben meglio che questo lunghissimo discorso tenuto con voi. Non bisogna ben porre fine a questo spettacolo. Portatemi dal vostro superiore. Quando lo vorrà lui e non prima. No, io voglio parlarci adesso. Basta! Lei con noi non si comporta come la nostra condotta meriterebbe. E che cosa dovrei fare? Calmarsi un po'. Che cosa dovrei fare? Calmarsi un po'. Che cosa dovrei fare? Non vuole capire questo miserabile. Ma come vi permette? Già, come ci permettiamo? Non ha ancora capito che noi, al contrario di lei, siamo uomini liberi. Già. E questa non è superiorità da poco. Già. Ispettore! Joseph K. Sì. Lei è molto sorpreso da quanto è successo stamattina? Si capisce. Si capisce che sono sorpreso. Ma molto sorpreso certamente no, potrei rivestirmi. Prego. Perché molto sorpreso no? Perché è scuso che la cosa possa essere davvero importante. Lo deduco dal fatto che sono accusato pur senza aver commesso la minima colpa che possa dar luogo ad un'accusa. Anche questo non vuol dire molto. L'essenziale è capire chi mi accusa. Ecco, qual è l'autorità che conduce la procedura? E voi siete dei funzionari? Nessuno di voi ha un uniforme. A meno che non si possa chiamare uniforme l'abito che indossate. Direi piuttosto un abito da viaggio. In questioni come questa io esigo chiarezza. E sono convinto che dopo questa chiarificazione potremo riconciliarci tutti quanti nel migliore dei modi. Lei sta facendo un grosso errore. Questi signori ed io abbiamo pochissimo a che vedere con la sua faccenda. Anzi, non ne sappiamo quasi niente. Non le posso nemmeno dire se lei è sotto accusa oppure no. Quello che so è che lei è stato arrestato, su questo non c'è dubbio. Ma io non so altro. Ed anche se non rispondo alle sue domande, posso darle un consiglio. Non pensi tanto a noi, a quello che le succederà. Pensi piuttosto a se stesso. E non faccia tanto baccano con quel suo proclamarsi innocente. Così non farà altro che rovinare l'impressione non del tutto sfavorevole che lei ci ha fatto finora. E soprattutto abbia un po' di ritegno. Due parole sarebbero bastate. Invece lei ha detto tante cose senza senso e nessuna che le potesse giovare. Ma lei chi si crede di essere? Cerca il senso in quello che faccio io. Lei fa le cose più assurde che uno possa immaginare. Tipo fare irruzione in casa mia all'alba senza alcuna ragione. Bene, signori, io direi di ritenere la faccenda conclusa qua e di separarci con una buona stretta di mano. Ecco, se siete d'accordo, arrivederci. Ho capito! Avete saputo del mio compleanno e mi state facendo uno scherzo? A lei sembra tutto così facile, eh? Chiudere il caso, riconciliarci. Sarebbe una soluzione, Max? No, non sarebbe una soluzione. Peraltro io non le ho assolutamente detto che la sua è una faccenda disperata. Perché dovrebbe esserlo? Lei è stato arrestato, tutto qui. Io dovevo solo comunicarglielo, l'ho fatto. Ho visto come lei ha reagito, per oggi basta. Immagino che lei vorrà andare in banca, vero? In banca? Ma io credevo di essere in arresto. Insomma, come posso andare in banca se sono stato arrestato? Lei è stato arrestato. Ma questo non le deve impedire di fare il suo dovere. Allora il regime d'arresto non è poi così rigido. Non ho mai detto che dovesse esserlo. Allora non capisco proprio dove fosse la necessità di comunicarmi il mio arresto. Era il mio dovere. Un dovere stupido. Può darsi. Ma vedo che con lei è troppo difficile ragionare. Io pensavo che lei volesse andare in banca. Ma dal momento che lei non fa altro che prendermi in parola, sarò più preciso. Ritenevo che lei volesse andare in banca, ma non lo obbligo affatto ad andarci. Sono le 7. Vedo che con lei è inutile ragionare. Non perdiamo altro tempo, andiamo, Max! Ispettore! Ispettore! La signora Krupak! Signore Krupak? Signor K, se ne sono andati? Sì, credo proprio di sì. Signora Krupak, mi dispiace per quello che è appena accaduto. Non si preoccupi, signor K. L'essenziale è che lei non se la prenda troppo. Davvero? Davvero. Vede, io ho qualcosa sentito nascosto dietro la porta. Si tratta del suo destino, questo mi sta a cuore veramente. Il suo non mi è sembrato l'arresto di un ladro. Mi è sembrato un arresto da gente istruita. Che io non capisco e che non dovrebbe capire nessuno. Un arresto da gente istruita. Signor K, mi dispiace. Se ho detto una sciocchezza. Oh no, no, signora Krupak. Non c'era niente di sciocco in quello che lei ha appena detto. Si siede, la prego. Non è tardi, signor K? Non deve andare in banca? Sì, ma non è un problema. Si siede, signora Krupak. Vede, signora Krupak, quello che è appena accaduto non è una faccenda da gente istruita. È una faccenda da nulla. Mi hanno colto alla sprovvista. E si sa, la vita si è sempre impreparati. In banca, per esempio, io sono preparato, una cosa del genere non mi sarebbe mai accaduta in banca. E sinceramente non avrei neanche voluto parlargliene, ma vede, signora Krupak, ci tenevo ad avere un suo giudizio. Il giudizio di una donna sensata come lei. Mi fa piacere che ci troviamo d'accordo. Qua la mano. Un'armonia di sentimenti come questa va sancita con una buona stretta di mano. Non si preoccupi, signor K. L'essenziale è che lei non se la prenda troppo. Non è in camera sua la signorina Büstner? No. Mi rincresce. Doveva farle una commissione? Aveva bisogno di qualcosa da lei? Oh no, no, no. Volevo soltanto dirle due parole. Mi rincresce. La signorina Büstner ritorna tardi. In casa tardi piuttosto spesso la signorina. Beh, si sa come sono i giovani. Sì, ma a volte si esagera, già mattina. A volte, sì. A volte. Signor K, la signorina Büstner è una cara ragazza, buona, ordinata, gentile, tutte ottime qualità, ma una cosa bisogna dirla, dovrebbe essere più riservata, più sostenuta. Io l'ho già vista in luoghi fuori mano e sempre con un uomo diverso. E poi io ho dei sospetti sulla signorina. Ma che mattina è questa? La mattina dei sospettati? Signora Krupak, lei si sta sbagliando di grosso. E perciò è evidente che ha frainteso la mia osservazione in merito alla signorina. La signorina Büstner ha il diritto di rientrare a casa quando desidera. Lei ha preso un abbaglio, signora Krupak. Quella ragazza io la conosco bene, in quello che lei ha detto non c'è una sola parola di vero. Signor K. Per favore. Io queste cose le dico soltanto per a lei. Per favore. Perché se io... Zitta! Io forse sto esagerando. Signora Krupak, mi dispiace, non voglio trattenerla oltre. Arrivederci. Signor K, io queste cose le dico soltanto a lei. Perché se io cerco di mantenere pulita la mia pensione, io faccio l'interesse di tutti i pensionati e non soltanto il mio. Signora Krupak? Signora Krupak? Signora Krupak, se lei vuole mantenere pulita la sua pensione, il primo che deve sfrattare sono io, ha capito? Sono io! signorina Büsner. Signor Kappa. Prego. Non dovrebbe essere in banca a quest'ora? Desideravo dirle due parole, se me lo permette. Proprio adesso? Non le sembra un po' strano? Il fatto è, mi è accaduta una cosa di cui vorrei parlarle. Qui parlare non si può. Sveglieremo tutti. E mi dispiacerebbe più per noi che per loro. Signorina, la prego. E va bene. Ma solo per un minuto. Io accendo la luce in camera mia e lei la spegne qui insieme. Va bene, va bene. Adesso. Ah. La prego, si sieda. Si siede anche lei, signor Kappa. Sì. Ecco, no. Magari adesso dirà che la cosa non era così urgente da doversene parlare subito, ma... Signor Kappa, vada avanti. Io le introduzioni le salto sempre. Beh, così mi spiana la strada. Questa mattina, e in parte per colpa mia, la sua camera e il resto della pensione sono state messe in disordine da gente che veniva da fuori. Una commissione d'inchiesta, forse. Per questo volevo porgere le mie scuse. Signor Kappa, è strano che io debba proibirle cose che naturalmente lei non dovrebbe permettersi, cioè entrare nella mia camera senza il mio permesso. No, no, signorina, non sono stato io. È vero, è tutto in disordine. Signorina, sono le fotografie. Sono state le guardie a prendere le fotografie. Allora è vero, qualcuno è entrato nella mia camera senza il mio permesso. Sono state le guardie. Le guardie? Sì, la commissione d'inchiesta. È venuta una commissione d'inchiesta per lei? Sì. No. Oh sì, cos'è? Crede forse che io non abbia colpi? Beh, proprio senza colpi. Però uno dovrebbe essere davvero un gran delinquente se gli si scaraventa addosso così all'improvviso una commissione d'inchiesta. Delitti gravi non può averne commessi. Giusto, ma può essere che la commissione d'inchiesta sia venuta a constatare che io fossi innocente. Giusto. O quantomeno non così colpevole come si riteneva. Giusto. Vede, signorina Giuseppe, lei non ha molta esperienza in questioni legali. No, però le materie giudiziari hanno su di me un fascino straordinario. Perché il delitto ha un suo fascino, vero? Io conto di entrare come scritturale in un ufficio legale. Benissimo, così potrà essermi d'aiuto per il mio processo. Forse, può darsi, perché no? Avanti, mi racconti com'è andata. Ah, è stato terribile. È troppo generico. Che cos'è troppo generico? Beh, se lei vuole sapere esattamente la mia opinione, io devo sapere esattamente com'è andata. Giusto, giusto. Ma se lei davvero vorrà essermi d'aiuto, allora io dovrò darle una rappresentazione dettagliata delle parti dei personaggi. Giusto. Giusto. Cominciamo. Là, qua, c'è la rispettore, con un cappello seduto. Là in fondo, due guardie. No, no, no, erano tre le guardie. Due qua sulla tendina e una qui appoggiata alla parete. E dietro la porta, la signora Grubach. Che cosa? La signora Grubach ha assistito a tutta questa mattina? Sì, stava dietro la porta a origliare, ma adesso comincia la scena. Ah, un momento. Dimenticavo la cosa più importante. Cioè? Me stesso. Cioè, il protagonista è qui. L'ispettore si alza e comincia a girarmi intorno. Comincia a guardare ogni angolo della camera, poi si volta verso di me e fa il mio nome, quasi lo urla. Mi ricresce, ma se devo farle capire realmente com'è andata la cosa, anche io dovrò urlare, ma è solo il mio nome che lui urla, così. Josef Kappa! Chi può essere stato? La signora Kappa farà uno scandalo, perderò la camera. Signor Kappa, era proprio necessario che lei gridasse così forte. Oh no, no signorina, non c'è ragione. Lasciatela. Lascia andare, signor capo. La signora Grubak sta origliando dietro la porta. Io non la lascerò andare finché non si sarà calmata. Signorina Buston, andiamo nell'altro angolo, lì non ci potrà ascoltare la signora Grubak. Signorina Buston, qualsiasi giustificazione lei vorrà propormi per questo nostro incontro, io lo accetterò. Se lei vorrà che si sparga la voce che io l'ho aggredita, io darò questa versione alla signora Grubak. La signora Grubak mi crederà e non per questo perderà l'affetto che ha in me. Signor Campa, lei è molto gentile e io le sono grata per le parole che mi ha detto. Ma vede, la responsabilità della mia vita è soltanto mia nei confronti di chiunque. Devo andare. Io ho bisogno di tranquillità adesso, più di prima. Mi aveva chiesto un minuto, io gli ho dato più di mezz'ora. Signorina Buston? Sì. Lei non è in colera con me, vero? Io? Io non sono in collera con nessuno. Arrivederci. Le 8. Devo andare in banca. Arriverò in ritardo. Sono già in ritardo. Che cosa dirò al direttore? Cosa dirò al direttore? Signor K, lei è giunto in ritardo! Sì, sono un lieve ritardo questa mattina, signor direttore! Signor K, lei è forse malato? No! No, un lieve ritardo questa mattina! Signor K, lei lavora troppo, lei si affatica troppo, avrebbe bisogno di una vacanza! Sì, signor direttore, ma una vacanza non posso permettermi! Signor K, qualche problema? No, nessun problema, signor direttore! Mio caro, ho sentito che lei è indisposto! Lei non è mai stato malato! No, sono un lieve ritardo questa volta! È la prima volta! Vuole prendersi una vacanza! Una vacanza volentieri, signor direttore, ma non posso permettermela! Lei comunque ha vissuto troppo tempo ritirato in quella pensione, poi! Sì, lei ha bisogno di un'abitazione più consona alla sua posizione! Consona la mia posizione, certo, signor direttore! Comunque ma... lei lavora troppo, mio sì, caro Kappa! Si affatica eccessivamente! Certo, signor direttore, ma io questa mattina... Questa mattina io... È giunto in ritardo, sì, Kappa! Vede, tutto inizia così. Chi sì, per una volta si sveglia troppo tardi può trovarsi completamente fuori sesto. Certo, è bello, quando la mattina si ritrova tutto quanto come lo si era lasciato la sera precedente. Sì, nel momento in cui si aprono gli occhi occorre avere grande presenza di spirito per afferrare tutto quanto come lo si era lasciato la sera innanzi. Sì, proprio per questo, Kappa, il risveglio è il momento più rischioso di tutta la giornata. Certo, signor direttore, io però... Però cosa? No, niente, che grazie alle sue parole io vedo già davanti a me grandi prospettive, basse prospettive. Bravo, Kappa, così mi piace. Grazie, lei è ancora all'inizio della sua carriera. Grazie, e punta in alto. Sì, signor direttore. Io questo lo apprezzo molto in lei. Grazie, dottor Kappa. Sì, signor lei è una delle nostre forze migliori, certo, Kappa. Non lo dimentichi, Kappa. Non lo dimentichi, Kappa. Io avrò una vacanza. Zio. Joseph. Zio, che cosa ci fai qui? Joseph, cosa mai ho sentito? Joseph, per l'amor del cielo, rispondi. È vero? Può essere vero? Zio, io non so proprio che cosa vuoi da me. Joseph, io devo pensare che tu mi hai sempre detto la verità. Intendere questo tuo silenzio come un brutto segnale? Rispondi! Zio, credo di cominciare a capire che cosa intendi. Hai sentito del mio processo? È proprio così. Ho sentito del tuo processo. E posso sapere da chi lo hai saputo? Come da chi? Da Erna! Da Erna? È passata la testa mattina, dalla pensione. Era tanto tempo che voleva fare colazione col suo cuginetto. Ma la signora Grubak l'ha fermata. Ha detto che era impegnato con un certo signore. Parlavate di un certo processo. Allora gli ho chiesto di che processo si trattava e se per caso non si trattava di uno scherzo. E lui mi ha detto, no, non era uno scherzo, era un processo, è anche serio. Io ho sperato, Joseph, ho sperato che non si trattasse che di un pettegolezzo. Allora, Joseph, qualcosa mi rispondi? Sì, zio, è vero. È vero. Cosa è vero? Come può essere vero? Non si tratterà di un processo penale. Ma sì, zio, è... Zio, credo si tratti di un processo penale. E tu, con un processo penale che ti pende sul capo, te ne stai lì tranquillamente a sedere. Zio, tanto più sto tranquillo, tanto meglio andrà a finire. Joseph, Joseph, pensa a te stesso, alla tua famiglia, al nostro buon nome. Eri diventato il nostro orgoglio, non vorrai diventare adesso la nostra vergogna! Adesso, Joseph, mi dici ben chiaro di che processo si tratta! Zio, tanto per cominciare, questo non credo sia un processo che si terrà di fronte a un tribunale ordinario. Brutta faccenda. Come brutta faccenda? Ma com'è possibile? Ma certe cose non avvengono così all'improvviso, devono esserci pur stati dei segni. Cosa? Tu lo sai che io per te sono quasi come un padre, in fondo sono come un po' tutore e finora ne sono stato anche fiero, ma ormai è troppo tardi. Il processo è incominciato. Zio, io non avrei mai creduto che avresti dato alla cosa così tanto peso. Non avrei mai pensato che avresti dato al processo l'importanza di quanto gliene stia dando io. Joseph, ma cosa ti è successo? Eri così savio, giudizioso. Ma che proprio adesso vuoi perdere la testa? Ma che vuoi perdere il processo? Ma lo sai che cosa significherebbe? Che tu verresti cancellato, semplicemente. E tutta la tua famiglia ne verrebbe coinvolta. O almeno profondamente umiliata. La tua indifferenza mi fa impazzire! A guardarti verrebbe da credere al proverbio! Ma com'è? Quale proverbio? Quale proverbio, padre? Quello del processo! Avere un processo come questo significa averlo già perduto! Perduto, Joseph! Perduto! Dov'è che dici sempre tu, eh? Con l'agitazione non si risolve mai niente. Con l'agitazione non si risolve mai niente. Ma è vero, se non è con l'agitazione che vinceremo il processo. Comunque, qualsiasi cosa tu deciderai per me andrà bene. Devo sempre risolvere tutto io. Devo sempre pensare a tutto io. Ma ormai sono 20 anni che mi sono ritirato in campagna e per certe faccende mi si è guastato il fiuto. Avevo parecchie relazioni con persone importanti, ma di necessità si sono allontanate. Ci hanno abbandonato! E tu lo sai. Comunque non perdiamo altro tempo. Andremo dal mio amico, l'avvocato Hult. Tu certo lo conosci già? No, zio. Come no? È famoso, l'avvocato difensore dei poveri. No, zio, non lo conosco. Famoso per la sua umanità. Zio, già te l'ho detto, qualsiasi cosa deciderai andrà bene. Io neanche sapevo si dovesse ricorrere ad un avvocato per una causa del genere. Come no? È naturale. Evidente. Perché no? Comunque, non perdiamo altro tempo. Voglio essere informato di ogni fatto che riguarda il tuo arresto. Sì, zio. E di ogni cosa che ti riguarda. Sì, zio. Andiamo. Solito per un avvocato ricevere senza appuntamento. Ma Hult è un mio amico. Non me ne vorrà. E sarà pure un mio amico, ma è un'ora che aspettiamo! Potremmo pulsare. Bravo. Ti sei fatto intraprendente, eh? Perché non apre? Ma tranquillo, è avvocato. Apra! Siamo amici dell'avvocato! L'avvocato sta facendo il bagno. L'avvocato ammalato. Sta facendo il bagno. Ed è ammalato. Ha detto che è ammalato. Asciugando. Devo andare lì. È aperto, ma voi non potete entrare. Un'altra volta faccia più presto ad aprire. Vieni, Josef! Ah! Sei lento, sei. È il mal di cuore, eh? Sì, ma è contagioso. Via. Via. Via. Sparisca lei e quell'orribile cappotto. È contagioso, eh? Cosa? Il mal di cuore è contagioso? No, zio, non credo. E io devo sparire. Sono io! Alberto! Davvero così male? Non direi. Sarà uno dei tuoi soliti attacchi di cuore, se ne andrà come tutti gli altri. Lascia stare, Alberto. Più brutto che mai. Non dormo. Fa male tutto. Manca il fiato. Più brutto che mai. notizie, eh? Ma ti curano bene, eh? A me questa infermiera non è che mi sta tanto simpatica. No, no, lei mi cura bene, buona, brava, bella, molto gentile. Ha sentito cosa ha detto? È grave. Si deve riposare. È stanco. Andate via. Penny, per favore, io devo parlare col mio amico di una questione della massima importanza. Per favore, vada via. Ho detto che si deve riposare, che è stanco, è ammalato, andate via. Ora forse non è chiaro che noi non siamo gente qualunque. Ora, se quello che chiedo non fosse possibile, io non glielo chiederei. Lenny, per favore, ci lasci stare. Ma tu davanti a Lenny puoi dire tutto, non Albert. Si tratta di me. Non sono problemi miei. Di chi si tratta allora? Mio nipote. Il procuratore Joseph Kappa. Ah. Mi scusi, io lei proprio non l'avevo vista. Io lei proprio non l'avevo vista. Lenny, vai via. Lenny? Vai via! Alberto! Tu non sei venuto qui al mio letto di malato. Tu sei venuto qui per affari. Adesso che quella strega è andata via, hai già l'aria di stare molto meglio, eh? Scommetto che sta lì ad origliare. Un giorno poi mi spiegherai perché tu la giudichi così male. Passiamo ora a tuo nipote. Io mi stimerei fortunato se le mie forze bastassero per questo compito estremamente gravoso. Temo che non basterà. Io comunque non lascerò nulla di tentato. Se poi non dovessero bastare, beh sì, potrà riporre certo qualcun altro. Sinceramente però, sta causa mi interessa troppo. Per assegnarmi a non prendervi parte in alcun modo. Se il mio cuore non dovesse poi reggere, sarà almeno una onorevole occasione per un fallimento, pazienza, definitivo. No, zio. Tanto, non capisco. Pensavo che parlassimo del suo processo, Kappa. Ma naturale, si tratta del suo processo. Perché hai così inquieto? Ma come fa a sapere del mio processo? Lui è un grande avvocato. Ah, ecco, bravo, ribadiscilo, Alberto. Ribadiscilo. Avvocato. Avvocato, bravo, ribadiscilo, avvocato. Avvocato. Sono avvocato. Frequento gli ambienti giudiziari. Conosco i vari processi. Quelli più clamorosi uno non li dimentica. Specie se vi è coinvolto il nipote, io caro amico, non è una cosa così strana, capo. Più clamoroso, ma che dici? Zio, zio, ma l'hai visto? Ma sei sicuro che questo fa quelli degli ambienti giudiziari? Ah, ho capito. Lei ritiene forse che a causa della mia malattia io non posso più avere contatti con gli ambienti giudiziari, beh, fino a un certo punto. Perché è vero che sono attualmente impedito dalle condizioni della mia salute. È pur vero che figura di un certo riguardo, vengono a trovarmi, è qualcosa. Io vengo a sapere. Anzi, vengo talvolta a sapere di più di molti che godono di ottima salute e che passano un'intera giornata. In tribunale, ecco l'aggancio. Fra i miei contatti. È il vantaggio che ne traggono i miei clienti. Per cambiare argomento, Kappa, lo sa che io oggi ho ricevuto una graditissima visita? La voglio condividere con lei. E il signor segretario, capo. Del tribunale. Signor segretario capo, questo è il mio amico Alberto Alberto, lì c'è suo nipote, procuratore KPDK, eccolo qua. Signor segretario capo del tribunale è venuto a farmi visita. Una visita il cui valore può apprendere a pieno solo chi ha dentro a questioni procedurali e sa quanto il segretario sia sovraccarico di lavoro. Eppure è venuto a intrattenermi in una meravigliosa conversazione. Alberto, che i tuoi pugni alla porta hanno ma bruscamente interrotta. Sono spiacente di non potermi intrattenere oltre, ma non volevo perdere l'occasione di stringere la mano, salutare un amico di un mio carissimo amico. Signor Cap, signor Alberto. Signor segretario Cap, per me è un onore. Se lei volesse prendere a cuore la causa di mio nipote. Quantunque, io sia già venuto a conoscenza della questione riguardante suo nipote e posso senza ombra di dubbio affermare che essa ha caratteristiche a dir poco particolarissime e ciò nonostante di interesse generale. Davvero è così grave? Non ha detto che è così grave. Grave, signor K. Potrebbe diventare. Senza dubbio la sua causa ci obbligherà ben più di quanto già non facciano le normali procedure giudiziarie a singolari raggiri dilatori. Dilatori? Dilatori, signor Alberto, dilatori, cioè atteggiamenti, comportamenti che tendono a procrastinare nel tempo azioni, decisioni, sentenze, condanne. Scusi, signor avvocato, scusi, signor segretario capo, ma di quali ragioni lei sta parlando? Io non riesco a capire, quale sia il suo ruolo all'interno di questa vicenda inverosimile. Ma lei non può neanche immaginarne l'importanza, signor capo, figuriamoci comprenderla. Vede, signor capo, il mio ruolo è quello di sospendere nel vuoto il dibattimento, di determinarne i movimenti, di fare oscillare nel vuoto la procedura. Giorni e notti intere di lavoro, signor K, giorni e notti. E poi non si dimentichi, noi abbiamo le nostre norme, i nostri principi che regolano il rapporto fra colpa e pena, ma improvvisamente possono farsi avanti altri poteri e la questione ampliarsi prendendo forme sempre più indefinibili e cupe, forme a cui solo pochi come noi possono accedere. Meraviglioso, amico mio, meraviglioso. Ora, lei può comprendere appieno l'importanza di questo incontro, signor K. Lei deve sempre riflettere bene prima di parlare. Perché la vuole sapere una cosa. Ma forse la immagina già. Signor segretario capo ha in mano la sua pratica. E allo stadio attuale il suo apporto potrebbe essere per lei determinante. E sono sicuro che in questo momento lei desidera che io trattenga segretario allo scopo di ottenere, se non proprio sul diretto patrocinio, quantomeno la sua benevolenza verso i futuri dibattimenti che la riguarderanno. Non è così? È così. Sì, sì. E io non lo farò, signor Capa, non lo farò, perché lei non lo merita, no. Perché lei mette in dubbio le mie frequentazioni giuridiche. Perché lei mette in dubbio che io mi occupi di questioni giuridiche. E questo a me provoca un immenso dolore, tanto più perché io non posso partecipare al dolore e all'affetto che io provo per il suo stimato parente. Mio caro Alberto, mi dispiace, non so se il mio cuore... Quanto è tanto! Potrà sopravvivere a questo immenso dolore. Cappa, io vado via, lei non ha bisogno del mio aiuto. Ciao Alberto! No. Stai bene, tu che puoi! Una domanda, Cappa. Ma lei chi pensava che frequentassi? Ripeto la domanda. Lei, Cappa, chi pensava che io frequentassi? Seriamente! Sarcasmi, piccolo presuntuoso. Bisogna saper imparare a tacere quando serve. Tacere e ascoltare. Tu non vuoi proprio farti aiutare, eh? E allora voglio sfracellarti da solo! Faceva che guardarmi, pensavo mi venisse a cercare. Invece mi ha fatto aspettare. Lenny, mi spiace, ma è facile da spiegare questa stranezza. Vede, Lenny, io non sono uno sfacciato, anzi. E lei, certo, non mi sembrava proprio il tipo di donna che cedesse al primo assalto. Non si tratta di questo. Il fatto è che non le sono piaciuta e non le piaccio neanche adesso. Piacere non basterebbe. Mi dica. Si sieda. No! No, no, no, no. Non lì. Lì. Lì. Mi dica, ce l'ha una ragazza? Sì, cioè no. No, no. Sì, insomma, si decida. Ce l'avevo, ma l'ho lasciata poco tempo fa. No. Si figuri che ho ancora una sua foto dentro la tasca. Bene. Si alzi. Si sieda. Noi! Qui. Qui? No. Lì. La fotografia? Sì. Veloce. Ecco. Bocca stretta, guance strette, fronte stretta, tutta stretta. Disgustosa? No, ma perché? Mi dica, la sua ragazza saprebbe fare dei sacrifici per lei? No. Come non era né carina né gentile, figuriamoci se avrebbe mai fatto dei sacrifici per me. Mi dica, la sua ragazza ha difetti fisici? Difetti fisici? Sì. Difetti fisici. Io ne ho uno piccolo. Guarda qui. Ma che scherzetto di natura, che manina graziosa. Mi hai baciato. Adesso sei mio. Rilassati. Adesso sei con me. Non starai pensando al tuo processo, vero? Effettivamente ci sto pensando fin troppo poco. È questo il tuo errore. Tu non sei abbastanza arrendevole. E questo per te sarà un problema, sai? Come un problema? Sì, e non è l'unico. Non è l'unico? Le tue labbra. Le mie labbra? Non chiedermi altro. Nascondi piuttosto il tuo errore. Alzati. Alzati. Vai, vai, vai. Corri. Corri. Vai a confessare. Corri in tribunale davanti ai giudici. Vai a confessare. Soltanto quando avrai confessato, forse te la potrai cavare. Ma anche in quel caso, non senza l'aiuto di qualcuno. Lenny, aspetta. Ti prego, Lenny, aiutami tu. Va bene. Ti aiuterò. Vai dal pittore di Torelli. È un artista che fa ritratti ai giudici su commissione. Ho visto un suo quadro a casa di Hund. La sua fama consiste nel ritrarre i giudici nani imponenti. Vada, signor Kappa. Un pittore per il mio processo. Ma allora, tu sei un testardo. Ma è impossibile. Che non si lascia convincere, tesoro. Tu mi hai stancato. Lei. Ah! E stai attento a quelle ragazzine petulanti, quelle bamboline. Sono gelosa. Lei. Lenny! Lenny, ti prego, aiutami! Lenny! Lenny, qual era il nome del pittore? Lenny, il nome del pittore! Qual era il nome del pittore? Fedeltà all'avvocato. Io ho anche altri avvocati. Non ci trovo niente di male. Ma sì, qui non è permesso. E tanto bene permesso davanti al cosiddetto avvocato prendersi anche dei mestieranti. Dei mestieranti? Sì, ed è quello che ho fatto io. Oltre a lui mi sono preso altri 5 mestieranti. 5 mestieranti? Sì. Sto trattando con un sesto. Ma lei crede che posso lasciare la mia causa ormai nelle loro mani? No! Devo continuare a lavorarci anch'io. Devo studiare. Io devo studiare. La prego, lei mi sta dicendo che lei stesso lavora e studia per il suo stesso processo. Già, giorni, il tempo non passa mai. Anche lei conoscerà l'aria pesante delle segreterie. Come fa a sapere che ci andrà? Ma come? Lei ha un processo, è chiaro che ci andrà. Va bene, giorni e giorni d'attesa, ma l'attesa non è inutile. L'attesa non è mai inutile. La mamma, lei non capisce. No. No, io non capisco, la pregherei di parlare più lentamente perché per me queste sono cose fondamentali. Lei è un novellino, il suo è un processo giovane, un bambino di processo. Ma io in questa questione ho riflettuto un numero incalcolabile di volte, per me sono la cosa più ovvia del mondo. Mi faccio vedere le sue labbra. Anche... Ma lo sai che è importantissimo? Lo sai che è possibile prevedere l'esito di un processo dal disegno delle labbra di un accusato? E non solo, non solo. Io potrei dalle sue labbra leggere il segno della mia propria condanna. Non ci ho mai letto niente di strano sulle labbra. No, nemmeno io, proprio niente. Come credulo un agente. Non glielo avevano detto. Ma già, ma lei deve essere proprio un grande esperto. Mi ricordo il tempo in cui il mio processo voleva difendere il suo. A quei tempi avevo solo questo avvocato, ma il processo non andava avanti. Si facevano indagini, io presenziavo tutte, io raccoglievo il materiale e l'avvocato presentava per me istanze su istanze. Istanze su istanze? Sì, certo, diverse istanze. Diverse istanze? Sì, ma nella maggior parte dei casi senza alcun valore. Senza valore? Erano dotte, ma sostanzialmente erano vuote, piene di latino, che io non capisco. E poi appelli generici ai giudici, ai tribunali, adunazioni personali per i singoli funzionari e interrogatori, tutti uguali fra loro presso poco. E le risposte... Io le risposte le avevo già pronte, dentro di me, come la litania. Vabbè, ma ha avuto qualche progresso? No, nessun progresso visibile. Nessun progresso visibile? No. Allora mi sono detto, quello che non vuole non può fare questo avvocato, lo vorrà o lo potrà fare un altro. E così mi sono messa alla ricerca di altri avvocati, ma nessuno di loro ha né chiesto né ottenuto che si fosse fissata la prima data per l'udienza principale. Neanche la prima data in 5 anni? Sembra essere un'impresa impossibile. Comunque non mi pento, no? Non mi pento di essermi rivolto ai mestieranti, anche se il dottor Hulda è solito fare un quadro dei mestieranti davvero spregevole. Quando parla degli avvocati del suo ambiente, lui, per distinguerli dagli altri, li chiama i grandi avvocati. Hulda è un grande avvocato? No, Hulda è un grande avvocato mediocre! Hulda è un avvocato... L'avvocato c'è sentito, è pericoloso. Vada via, noi non ci siamo mai conosciuti. La porta! Guarda! Shhh! Che cosa fai? Stavo solo spiegando al signor procuratore i meravigliosi progressi del mio processo. Bravo, Block! Stava parlando dei mestieranti. No, non è vero! Block! È proibito parlare dei mestieranti, lo dico all'avvocato. No, no, Lenny, ti prego, non dirlo all'avvocato, ti prego, Lenny, non dirlo. Va bene, Block, smettila di frignare. Joseph, Joseph, andiamo. L'avvocato ti cerca. Lenny, ti prego, non dirlo all'avvocato. Signor procuratore, deve ancora confidarmi il suo segreto. Hai ragione, ma ormai non è neanche più un segreto. Sto andando dall'avvocato a revocare. Revoca l'avvocato! No, l'avvocato revocato! No, revoca l'avvocato! Revocato, revocato, l'avvocato revocato! Cappa! Che piacere, vedo che è rimasto. E io vedo che lei si è rimesso al meglio. Mi sono rimesso in piedi per lei. Cosa voleva da me? Avvocato, ecco sì, le volevo dire due parole. Due parole? Io pensavo quattro. Si tratta di Lenny. Lenny. E Lenny è stata di nuovo importuna. Importuna? Ma sì, si è accorto che è una seccatrice, Lenny, no? La sua singolarità consiste nel fatto che Lenny trova belli quasi tutti gli imputati. Si affeziona a tutti, si innamora di tutti. No, ma non si meravigli poi tanto, Cappa, no, no. Se uno ha occhio, spesso osserva che gli imputati sono belli davvero. E questo è un fenomeno strano che dovrebbe interessare i naturalisti. Non voglio dire che l'atto d'accusa in sé dovrebbe mutare l'aspetto esteriore, questo no. Però chi si intende di queste cose sa distinguere entro la massa gli imputati, uno ad uno, da che cosa, lei mi domanderà. E io non so risponderle, Cappa. Perché è pur vero che gli accusati sono i più belli. Ma non può essere la colpevolezza che li rende tali, poiché non tutti sono colpevoli. Né può abbellirli la giusta punizione, poiché non tutti saranno puniti. Dunque l'effetto non potrà dipendere che dal procedimento in sé, intentato contro di loro, che gli rimarrà poi come appiccicato. Sì, ma sono anche bellissimi, oltre ai belli. Sì, sì. Ma tutti sono belli poi alla fine. Anche lei conosce Block? No. No. No. No. È un povero verme. Cosa voleva da me, Kappa? Avvocato, sì, ero venuto da lei per affidare il mio processo, ma le volevo dire che ho già cambiato idea. Parliamone, Kappa. No, avvocato, non desidero più parlarne. Lei precipita, Kappa. Avvocato, io non sto precipitando proprio niente. Lei è impaziente, Kappa. Avvocato, io non sono impaziente. È che sono qui da poche ore e già mi sembra che il mio processo mi stia crollando addosso. Se lei sapesse quanti clienti all'inizio del loro processo mi hanno affrontato come lei dicendomi le stesse cose. Ma io pensavo che lei avesse più discernimento, lo sa? Perché lei non è un cliente qualsiasi. Lei è il nipote del mio caro amico Alberto. Io a lei avrei permesso di guardare dentro gli atti procedurali, dentro le mie carte, cosa che non ho mai fatto con gli altri miei clienti. E invece mi tocca vedere che nonostante questo, lei non ha abbastanza fiducia in me. Lei non mi spiana la strada, non me la spiana. Avvocato. Voglio farle vedere una cosa. Voglio farle vedere come vengono trattati gli altri imputati. Lei sieda qua. Va bene, ma ha preso atto che le ritiro il mandato? Lenny! Lenny! Fammi entrare, Block. Subito. Block, sono pronto? Sì. Che vuoi? Tu arrivi a sproposito. No, non sono stato chiamato. Ci sei stato chiamato, ma tu arrivi a sproposito, sempre, comunque. Comunque a sproposito, sempre a sproposito, Block, sempre. E se vuoi me ne vado. No, ragazzi, qui rimani. Block, una domanda. Chi è il tuo avvocato? Lei. Oltre a me? Oltre a lei nessuno. Ma, non è che per caso tu hai dei mestieranti oltre a me? No, oltre a lei nessuno! Vabbè, io ti credo, Block. Però tu non devi seguire i consigli di nessun altro. Che schifo, mettete in ginocchio, striscia! lei non può parlarmi così, non è ammissibile. Ma perché mi offende? E per di più qui, in presenza del signor avvocato! Brava, Block, mi riempi d'orgoglio! Ma dica, il signor avvocato ha sentito come ha parlato costui? Il suo processo non dura che da qualche ora, ha osato dare lezioni a me! Uno il cui processo va avanti da più di 5 anni! Sì, vai avanti così per la tua strada! Per la tua strada, vai avanti così! Eccomi qui incinato davanti all'essere, Locca. Io esito a dirgli. Perché esiti? Come sei comportato oggi? È stato buono, diligente. Ma cosa ha fatto durante il giorno? È rimasto tutto il giorno in ginocchio, nella sua stanzetta, a studiare i libri che gli hai dato. Ma capiva quello che leggeva? Neanche una parola. Sospirava sempre. Sulla stessa pagina, tutto il giorno. Come se la lettura gli costasse molta fatica. I libri che gli hai dato dovevano essere molto difficili. Sono fatti apposta per non essere capiti. Devono semplicemente dargli l'idea della fatica che io faccio per difendere. E per chi la faccio questa fatica io? Perché non ha senso. Mi viene da via. Per prova. Bisogna che impari a capire anche questo. Ha sempre studiato? Tutto il giorno, senza interruzioni. Solo una volta mi ha chiesto da bere. Dimmelo piano, Lenny. Tu cosa hai fatto? Io gli ho dato un bicchiere d'acqua. Te pacchi, Lenny! No! Tu lo pizzi, lo lodi! E questo rende ancora più difficile il mio compito perché il giudice non si è espresso favorevolmente né su Block né sul suo processo! Non favorevolmente? No, non favorevolmente! Anzi, quando gliel'ho parlato si è rimasto sgradevolmente colpito! Non mi parli di Block! Lei si lascia sfruttare da un pessimo imputato! Sarà così, ma insomma, Block studia le carte, segue il processo, è sempre a casa mia. Uno zelo come il suo è raro a trovarsi, certo, puzza. Non si lava mai alle cimici, però dal punto di vista processuale è irreprensibile. Ho proprio scandito la parola irreprensibile, ho esagerato un po'. Block è furbo! Ha accumulato molta esperienza per tirare lungo il processo, ma è furbo! Spock, dimmi il decalogo che avrò imputato. Comma 1. L'imputato non può difendersi da solo. Bravo imputato, insomma. Comma 2. L'imputato deve avere un avvocato. Comma 3. L'imputato non può cambiare avvocato. Vuole provare, Cap? Ah, avvocato, no, no, no. Comma 4. L'imputato deve presentarsi pulito e con la giacca davanti all'avvocato. Di nuovo, comma 2. L'imputato deve avere un avvocato. Lentamente, comma 3, insieme a blocco K, lentamente. L'imputato non può cambiare avvocato. Non può cambiare avvocato. L'imputato non può cambiare avvocato. Non può cambiare avvocato. Cappa avanti, comma 4. Cappa avanti, comma 5. Cappa avanti, corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri. Sono un imbianchino. Signor giudice, il suo annuncio che io fossi un imbianchino è tipica del processo che viene condotto contro di me. Io obietterei che questo non è un processo, perché diventerà un processo soltanto quando io lo riterrò come tale. Questo quadernetto che mi è appena stato messo a disposizione, signor giudice, è la prova di quanto ho appena detto. Questo memoriale di infamanti accuse derivate da un procedimento di indagine cieco, arrogante, presuntuoso, punitivo, diffamatorio e probabilmente illegale. Non ho alcuna intenzione di leggerlo, signor giudice, perché mi rifiuto di tenerlo in mano. Quello che è successo a me è indicativo di un modo di procedere che viene condotto ai danni di molti altri. E io qui difendo loro oltre a me stesso. Quello che voglio è che si discuta pubblicamente di un pubblico abuso. Ascoltate. Thank you. Ascoltate! Oggi sono stato arrestato. Mi hanno sorpreso di prima mattina. Forse avevano l'ordine di arrestare non so che in Bianchino. E invece hanno scelto me. Mi hanno sequestrato insieme alla proprietaria della pensione in cui vivo. La rispettabilissima signora Grobach. Delle guardie senza alcuna educazione. Tali Franz, Max e Willem. Mi hanno riempito la testa di chiacchiere. La loro gentilezza fuori dalle regole oltrepassava di gran lunga il limite del loro incarico. Così si sono espressi. A mio giudizio, era solo un tentativo di corruzione. E ancora, dopo vari maltrattamenti, hanno condotto alla mia presenza un altro individuo, il quale, pure lui, senza fornire ufficiali generalità o qualsivoglia mandato, ha dichiarato essere un ispettore. Allora ho chiesto all'ispettore come mai fosse stato arrestato. E costui che cosa mi ha risposto? Cari signori, non mi ha risposto proprio un bel nulla. Mi aveva arrestato, gli stava bene così. E non basta. La notizia del mio arresto pare aver già fatto il giro del mondo. Prima di un qualsivoglia giudizio. Semmai ci sarà. O semmai si potrà chiamare tale. Io vedo già compromessa la mia brillante carriera. L'affetto dei miei cari. La mia reputazione. E il signor Joseph K? Cancellato. E per che cosa? Non rispondete? Perché si conducono indagini mediocri? Perché si istituiscono procedimenti assurdi? Perché guardie cercano di portar via il vestito dal corpo dell'arrestato? Perché ispettori commettono violazioni di domicilio e liberi cittadini invece che indagati vengono pubblicamente umiliati? Qual è il senso di questa proterva ed arrogante organizzazione? Non rispondete? Vi siete cacciati tutti qui a spiare e ficcare il naso? E adesso? Siete imbarazzati? È sgradevole trovarsi di fronte a una persona come me, vero? Vi faccio pena? Anche voi siete turbati di fronte alla vista delle mie labbra? Anche voi convinti di poter leggere sulle mie labbra che sarò ritenuto colpevole e che quindi sarò condannato? Miserabili. Forse volevate imparare come si fa a rovinare un libero cittadino. Bene. Spero che non abbiate perso il vostro tempo. Spero che non abbiate mai mattine come questa. Teneteli per voi, i vostri tribunali. Teneteli per voi, le vostre indagini. Teneteli per voi, i vostri processi. Ficcateveli in gola. Thank you. Pittorelli? L'hai data nella distinta, nella legge. È chiaro che sta scritto che l'innocente viene assolto, ma dall'altra parte non sta scritto che i giudici possano essere influenzati se uno innocente non è. Pittorelli? E io ho saputo di molti giudici, signor K, che sono stati influenzati. Ci sono tre possibilità. L'assoluzione vera, l'assoluzione apparente e il rinvio. Per l'assoluzione vera è determinata unicamente l'innocenza dell'imputato. Se lei sceglie l'assoluzione apparente, io scrivo su un foglio la sua dichiarazione di innocenza. Faccio il giro dei giudici che conosco. Spiego che lei è un carissimo amico ed è innocente. E mi porto garante della sua innocenza. Ho ottenuto un numero adeguato di firme dei giudici sulla dichiarazione. Vado con questa dal giudice che ha in mano il suo processo. E vedendo la valle dei numerosi altri giudici, le darò tranquillamente l'assoluzione per compiacere me e altri conoscenti. Naturalmente, dopo aver espletato varie formalità, lei comunque se ne esce dal tribunale del libero. Ma solo in apparenza. In apparenza. O meglio, temporaneamente. Temporaneamente. Nella soluzione vera, le atte del processo devono essere totalmente eliminate. Totalmente eliminate. Spariscono dal procedimento. Spariscono dal procedimento. E si distrugge tutto. Si distrugge tutto. Nella soluzione apparente è diverso. Diverso. Il fascicolo degli atti non sparisce dal procedimento. Sparisce dal procedimento. Viene inoltrato ai tribunali superiori. Ritorna agli inferiori e fa la spola così, su e giù, su e giù, su e giù. Signor Kappa, lasciatemi stare. irrespirabile, ma alla fine ci si abitua benissimo. Sbattesse contro le pareti del tribunale, come se dal fondo delle scale venisse un rombo di acque scroscianti, come se i corridoi rollassero, i soffitti si alzassero ed abbassassero alternativamente. Egli era nelle loro mani. Se l'avessero abbandonato, sarebbe caduto come un palo. Dai loro volti sprezzavano sguardi lampeggianti. Cappa udiva le loro voci uniformi, senza prendergli parte. Si accorse che parlavano con lui, ma non capiva. Sentiva soltanto il suono che riempiva il locale ed era attraversato da uno squillo alto e sempre uguale, come quello di una sirena. Joseph K. Tu sei Joseph K. Sì. Tu sei stato accusato. Ne sono stato informato. Io sono il confessore del tribunale. Sono venuto a parlarti. Ah, sì? Cos'hai in mano? Un libro di preghiere? No. Il memoriale del mio processo. Come ti immagini andrà a finire? All'inizio pensavo che sarebbe andata a finire bene. Ora, ho io stesso qualche dubbio. Come finirà non lo so. Tu lo sai. Forse il tuo processo non andrà oltre un tribunale di grado inferiore. La tua colpevolezza si dà per dimostrata. Come può un uomo essere ritenuto improvvisamente colpevole? Non capisci. La sentenza non arriva così ad un tratto. È il processo che a poco si trasforma in sentenza. È così dunque. Parlami della tua legge. E sia. Nel preludio alla legge è scritto: dinanzi alla porta della legge c'è un guardiaportone. Un giorno un uomo va da questo guardiaportone e gli chiede di poter entrare nella legge, ma il guardiaportone gli dice che ora non può lasciarlo passare. L'uomo domanda se potrà entrare più tardi. È possibile, dice il guardiaportone, ora no. L'uomo siede accanto alla porta e lì rimane per giorni e anni. Il tempo passa inarrestabile e tutte le esperienze di quel lungo periodo si tramutano nella testa dell'uomo in una domanda che non ha ancora posto al guardiaportone. Cos'altro vuoi sapere da me? Sei insaziabile. Tutti sono portati verso la legge. com'è possibile che nessun altro abbia chiesto di entrare. Il guardiano capisce che l'uomo è arrivato ormai alla fine e dice: nessun altro poteva entrare da qua. Questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora lo chiudo e me ne vado. E il guardiano dunque aveva ingannato quell'uomo. Il suo compito era quello di tenere lontani gli estranei. Ma quell'uomo al quale l'entrata era riservata avrebbe dovuto lasciarlo entrare. Lo scritto non concede a nessuno di giudicare il guardiano. Egli appartiene alla legge, dunque è sottratto al giudizio umano. Siamo ormai verso il portone, vero? Sì. Padre, è come se la vergogna mi dovesse sopravvivere. Deve già andare. Devo. Non vuole nient'altro da me. Anche io appartengo alla legge. Cosa posso volere io da te? Il tribunale non vuole niente da te. Ti abbiamo accolto quando sei venuto e ti lasciamo andare adesso che te ne vai.